Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Polemiche sulle scelte per i premi Nobel, quelli di medicina, di fisica, critiche anche dal mondo scientifico italiano. Ne parleremo in questa puntata, ascoltiamo i titoli insieme. Buonasera a tutti e a tutte. Non ci sono da sempre i sismografi. Come sapere quando antichi terremoti hanno scosso il nostro pianeta? Lo si può capire scendendo nelle caverne. Robot che chattano fra loro. Non è proprio così, ma il risultato è lo stesso. Si coordinano per fare insieme un unico lavoro. Il croc delle patatine, le mance delle spogliarelliste, le gallerie degli armadilli. Sono tutti elementi che valgono un Ig Nobel. Premiate come ogni anno le ricerche che prima fanno ridere e poi fanno pensare. Polemiche e sorprese invece per i premi Nobel in medicina e fisica. A Stoccolma abbiamo intervistato Lars Brink, membro della commissione per l'assegnazione del Nobel alla fisica. Un aggiornamento sul fermo di macchina all'LHC di Ginevra. Ne parliamo con Sergio Bertolucci, direttore della ricerca al CERN. C'è vita nelle catacombe. Non vi parliamo di zombie e mummie, ma di vita microscopica. A volte capita di imbattersi in batteri completamente nuovi, mai visti prima. Ora vi porto dentro una caverna. Qui sotto la sede della radio ci sono delle grandi caverne che vengono a vedere da tutto il mondo, lo sapevate? Nemmeno io. Le caverne sono grandi cattedrali sotterranee, è giusto definirle cattedrali e in particolare gotiche perché qui siamo circondati da una singolare e diffusa in tutto lo spazio struttura geologica, stalattiti e stalagmiti. Come sempre ci si confonde con queste due definizioni, quindi è meglio ricordarle. Le stalattiti sono quelle che pendono dall'alto, le stalagmiti sono quelle che salgono dal terreno. Io adesso vi voglio parlare delle seconde, le stalagmiti. Sentite? Se si battono sono come un diapason. Però torno su in studio perché qui fa un freddo tremendo. Eccoci qua. Allora, la formazione delle stalagmiti dipende da infiltrazioni d'acqua che provengono dal soffitto della caverna. Gocce di liquido che per centinaia, migliaia di anni cadono con precisione nello stesso punto. Le gocce, che passano prima attraverso il terreno, portano con sé carbonato di calcio in soluzione. È questo che lentamente si accumula sul terreno e forma le colonne delle stalagmiti, questa specie di trulli sotterranei. Ora, attenzione, cosa succede sottoterra durante un terremoto? Non è difficile pensare che anche in una caverna che si trova nelle vicinanze di un epicentro tellurico possano aversi degli effetti. Sotto spesso le strutture sono più stabili, ma nella volta della caverna, per via dei movimenti di terra che si hanno più sopra, possono formarsi dei fori, molti buchi nuovi, generati proprio da quel terremoto, attraverso i quali, questi buchi, da quel momento inizieranno a cadere gocce d'acqua e sotto, sul pavimento, prenderanno a crescere delle stalagmiti. Samuel Panno, geologo del Servizio Geologico dell'Illinois, negli Stati Uniti dunque, ha fatto una scoperta casuale inizialmente, poi verificata con rilevazioni ad hoc. Immagino che conosciate tutti quel sistema che utilizza le emissioni radioattive per datare i materiali, poiché la radioattività diminuisce nel tempo e lo fa con una progressione conosciuta, allora è possibile ricavare quanto è vecchio un certo materiale. In questo caso si è utilizzato il decadimento radioattivo dell'uranio in un isotopo del torio. I ricercatori hanno misurato allora una serie di stalagmiti presenti in una caverna e con loro sorpresa hanno scoperto che avevano tutte la stessa età. Da qui si è accesa una lampadina la cui luce è stata confermata da successive rilevazioni. Se si verifica un terremoto e a seguire si formano decine di nuove infiltrazioni sgocciolanti, questo ci dirà, valutando l'età delle stalagmiti sottostanti, l'anno del sisma. La natura, insomma, ha il suo modo di tenere i diari. Vi parlo ora di chat, definizione usatissima oggi perché le chat sono questo modo che attraverso la rete usiamo tutti per parlarci nei modi e nei tempi più diversi. Qui però a parlare sono i robot o sistemi automatici. Per parlarvi di chat il mio ospite è il professor Antonio Bicchi. Buonasera Bicchi. Buonasera. Lei si occupa di robotica e automazione sia dal punto di vista dell'insegnamento che dal punto di vista della ricerca al centro Piaggio dell'Università di Pisa. Allora, chat è un dispositivo, è un progetto, è un insieme di procedure, ci dica subito di che si tratta. Sì, chat è un progetto finanziato dalla Comunità Europea che vede un certo numero di industrie, di centri di ricerca, di università che collaborano per sviluppare dei sistemi per l'automazione avanzata, fatta di con un'idea innovativa che è quella di mettere le macchine, i robot e le macchine automatiche degli impianti industriali come agenti autonomi che si parlano tra loro e che cooperativamente decidono le migliori operazioni per raggiungere gli scopi che vengono loro assegnati. E quello che noi dobbiamo immaginarci è che questo sistema venga applicato per esempio alla produzione, alla costruzione di un determinato prodotto. Ecco Bicchi, oggi una delle frontiere più avanzate e più interessanti per quanto riguarda la robotica è proprio quella di non avere il singolo robot e la singola automazione, ma avere un sistema che è fatto da diversi soggetti e da diverse entità che però imparano a parlare fra loro e a compiere avere un obiettivo comune che però, come dire, ecco, questa è la prima domanda che le faccio. Questa possibilità appunto di chiacchierare tra loro dalle macchine dà una prestazione ed efficienza maggiori? Sì, dunque, la situazione attuale degli impianti ad alta automazione è quella di avere, naturalmente già adesso abbiamo tantissime macchine negli impianti di produzione anche delle automobili che tutti conosciamo, ci sono certo. Molti bracci robotici. E la differenza, quello che si sta cercando di fare nella comunità, è quella di fare in modo che questo grande sistema non sia più controllato da un unico supervisore centrale, una specie di grande fratello che tutto vede e tutto sa di questo enorme impianto, ma di fare in modo che le macchine abbiano dei gradi di autonomia sempre più elevati, autonomia e intelligenza, e poter fare in modo che il sistema continui a funzionare dando questa autonomia e permettendo alle macchine di parlare tra loro in modo da risolvere localmente, in piccoli gruppi, i problemi che si possono presentare, le variabilità, le incertezze e diciamo le sorprese che si possono presentare nel corso della lavorazione. Questo rende tutto il sistema più duttile, insomma, non avendo una centralizzazione si riesce ad ottenere più duttilità. Esattamente, sì. Il problema centrale può essere posto in questi termini. Se fosse possibile avere un grande fratello, come dicevo prima, che conoscesse effettivamente veramente tutto, allora forse dal punto di vista dell'efficienza questa potrebbe essere la soluzione migliore. Nella realtà questo succede raramente, ci sono molti imprevisti che capitano, i prodotti, i pezzi non sono tutti della stessa qualità, non sono tutti conformi, ci sono anche altri fattori, i pezzi possono non essere tutti uguali, o gli operatori che si muovono nella fabbrica possono avere bisogno di fare operazioni che potrebbero uscire dal range in cui la sicurezza è garantita. Allora, in questi casi bisogna adattarsi alle nuove situazioni. Questa capacità di adattamento è difficilmente gestita a livello centrale e per aumentare prima di tutto la sicurezza, senza perturbare, senza diminuire troppo la qualità e la produttività della produzione, l'autonomia delle macchine è lo strumento che stiamo cercando di sfruttare. Ecco, so che il vostro progetto è particolarmente attento a problemi di sicurezza, si sta per concludere un anno che è stato tremendo per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. Devo dire che però nelle postazioni, nelle produzioni automatizzate non si è certo concentrato la maggior parte, insomma, di questi incidenti. Però ecco, le chiedo questo: quando la sicurezza in un sistema altamente automatizzato dipende dal software, ecco, noi abbiamo tutti il rapporto col software e sappiamo che spesso e volentieri i nostri computer, come si dice in gergale, si incartano, si congelano. È possibile invece avere un sistema come nel vostro che sia, come dire, esente da questi pericoli? Beh, un sistema perfettamente sicuro purtroppo non è possibile, però la tecnologia deve avere come scopo quello di aumentare la sicurezza. Come lei osserva, mi fa piacere che lo abbia fatto, in genere dove c'è automazione c'è maggiore sicurezza, questo è uno degli scopi di chi fa il nostro lavoro. Sì, ovviamente questa sicurezza in questo momento è pagata con una relativa inefficienza del sistema, ovviamente, e questo significa che la sicurezza nelle industrie fortemente automatizzate e robotizzate è ottenuta segregando i robot dall'ambiente di lavoro degli operatori, quindi tenendo gli operatori lontani dai robot. Se bisogna fare manutenzione si ferma l'impianto e si va a fare manutenzione. Sì, come lei diceva, è un tema di ricerca importante, in particolare per noi. La cosa da fare sarebbe poter garantire che in qualsiasi condizione, in caso peggiore che il software si fermi o addirittura impazzisca, le macchine restino sicure. Ora, questo naturalmente è un obiettivo molto molto ambizioso, ci sono però dei lavori che vanno in queste direzioni. Noi stessi abbiamo fatto un progetto di cui la macchina viene costruita, il robot viene costruito con delle caratteristiche meccaniche che permettono di avere sicurezza nonostante qualsiasi guasto ai sensori o al software. Possibile incidente, certo. Antonio Bicchi, grazie e buon lavoro. La ringrazio. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. A questo punto della trasmissione c'è sempre il nostro gioco, eccoci allora al quiz. Dunque, visto che con l'aria che tira fra borse, mercati e banche, qui ci troveremo probabilmente a mangiare erba nelle savane e a cacciare con le frecce, è meglio addestrarsi fin d'ora a riconoscere i versi degli animali. Sentite questo suono allora. Ve lo faccio sentire un'altra volta. È o no un verso di animale? Potrebbe essere la registrazione accelerata di una pompa per gonfiare un canotto? Ci scriverete canotto. Potrebbe essere una pompa per estrarre acqua? Ci scriverete acqua. O infine potrebbe essere il suono, il verso dell'Equus burkelli, più comunemente nota come zebra. E ci scriverete zebra. Il libro che si vince è Relatività, guida illustrata molto speciale di Santer Baes, editore Dedalo. Dovete darci le vostre risposte al solito numero, l'SMS 349-238-6666. E il quiz sonoro non era casuale, perché noi adesso stiamo per parlarvi di qualcosa nella quale il suono è assolutamente centrale. In collaborazione con IBS.it. Non abbiamo preso quello più importante, però ne abbiamo preso un altro che non è niente male. Di questo vi parleremo in questa seconda parte della trasmissione. Io adesso per il momento lascio la parola a Chiara Albicocco e Maurizio Menis. Va bene, grazie Federico. Allora Chiara, tu sai che parliamo di un premio che viene assegnato tutti gli anni un po' prima dei Nobel. Una settimana circa prima dei Nobel. Ecco, io credo che se leggiamo la targa che compare sul premio, quello che fisicamente viene consegnato al ricercatore, non sbagliamo. Te l'ho portato, guarda, leggilo tu. Allora, te lo leggo testualmente. Questa targa certifica l'esistenza del premio Ig Nobel 2008, che è stato assegnato nel 2008 a un vincitore del premio Ig Nobel. Il riconoscimento del raggiungimento del premio Ig Nobel da parte del vincitore del premio Ig Nobel. Beh, chiarissimo! Hai visto? Ecco, insomma, è evidente che stiamo parlando del premio Ig Nobel, ed è anche evidente che il premio Ig Nobel, gli appassionati di scienza già lo conoscono, sì, bisogna dire la verità, è una roba abbastanza surreale, una grande kermesse in cui gli scienziati, insomma, si prendono un po' in giro, sì, è vero. Esatto. Ecco, tanto per dare un'idea dell'atmosfera, lo sport preferito lì è il lancio degli aeroplanini di carta. Sì, all'interno della sala della presentazione. E sono, è un modo per esprimere sdegno, approvazione, tutto avviene col lancio degli aeroplanini di carta. Bene. Facciamo un po' un riassunto, siamo alla 18ª edizione, la prima del 91. La manifestazione è sponsorizzata da una rivista che si chiama Annals of Improbable Research, quindi annali della ricerca improbabile, della ricerca strana, e premia sì delle ricerche strambe, ma si parla pur sempre di ricerche che sono comparse su riviste prestigiose. Sì, sì, Maurizio, infatti diciamo che la ricerca è seria, però qualche volta fa venire il dubbio sul fatto che ce ne fosse davvero bisogno di questa ricerca. Però diciamo che è un momento in cui la comunità scientifica, come dicevamo prima, si prende un po' in giro. Ecco, tu parlavi di aeroplanini di carta, ecco, ti aggiungo questa cosa qui. Durante la cerimonia c'è sempre un tale con un cappello da cinese che va in giro con una ramazza a scopare appunto gli aeroplanini di carta per la sala. E l'anno scorso, indovina chi aveva questo, diciamo così, ruolo? Soltanto il premio Nobel per la fisica del 2005, un certo Roy Glober. Insomma, non mancano di umorismo, insomma, gli scienziati, dai. Vorrei precisare che gli Ig Nobel sono sempre consegnati da dei veri premi Nobel. Ah, ok. Abbiamo detto, siamo al 18esimo anno, quindi sono stati consegnati quasi 200 Ig Nobel. Mi sembra il caso di ricordarne qualcuno, sì. Certamente. Allora, cominciamo. Rullo di tamburi. Senti, io mi sono portato le maracas, va bene lo stesso? Benissimo. Allora, inizio io ricordandoti il premio Ig Nobel per la chimica, consegnato nel 2001. E pensa un po', è stato insignito ad una ricerca medica che, diciamo così, si occupava di ferite dovute alla caduta di noci di cocco. Che è una, insomma, delle forme più gravi, soprattutto in Europa, di lesione, certo. A me invece è piaciuto molto quello della fisica del 2000, che è stato assegnato per una ricerca nella quale erano stati utilizzati dei supermagneti, erano esperimenti di levitazione magnetica per far lievitare una rana e anche un lottatore di sumo. Bene, allora senti qua, il premio Ig Nobel per la tecnologia, consegnato nel 1993, è andato a due scienziati che hanno inventato l'AutoVision. Che cos'è? Altro non è che un proiettore che rende possibile fare due cose insieme, guidare un'auto e allo stesso tempo guardare la TV. Io aggiungerei anche suicidarsi. Ecco, perché... però ti dirò un'altra cosa, che nello stato del Michigan questo proiettore è stato già messo in pratica, viene utilizzato regolarmente. Ah, complimenti allo stato del Michigan allora. Cosa mi dici invece di una ricerca? Parliamo della meteorologia, dell'Ig Nobel per la meteorologia 1997, che ha questo titolo: lo spennamento dei polli come misura della velocità di un tornado. Beh, niente male. Io mi domando seriamente se questi polli abbiano subito più sevizie dal tornado o da questo Vonnegut, dal ricercatore, che è il ricercatore che ha fatto questa. E a proposito di polli, Maurizio, io ti vorrei segnalare un ricercatore italiano che l'anno scorso è stato insignito del premio Ig Nobel, che aveva fatto uno studio sui polli e in particolare aveva ricavato, insomma, questa somma che i polli preferiscono i belli, cioè le fotografie delle persone belle. Allora, noi sul sito abbiamo raccolto l'intervista a questo italiano e a molti altri che sono stati insigniti del premio Ig Nobel nelle edizioni scorse, e quindi gli ascoltatori che fossero interessati lo trovano sul nostro sito www.moebiusonline.eu. Ma non divaghiamo, andiamo avanti. Ecco, infatti io ci tengo a ricordare una ricerca. Non mi ricordo quando, ma un tale era stato premiato per l'invenzione della sveglia che suona e poi scappa. Così, insomma, uno per spegnerla è costretto ad alzarsi. E ti dirò che a me sembra un'invenzione utilissima. Ti dirò di più, te la regalerò a Natale perché questa è stata veramente prodotta. Ah. Senti, Maurizio, veniamo all'edizione di quest'anno, via. Va bene, allora, rullo di tamburi, non so come si dice. Fiato alle trombe. Fiato alle trombe, va bene. Ma no. Prima ricerca, lo dichiaro subito, questo è il mio Ig Nobel 2008 preferito. Un team dell'Università del New Mexico si è portato a casa l'Ig Nobel per l'economia con una ricerca che ha dimostrato, pensa un po', che il ciclo ovulatorio, parliamo evidentemente di quello femminile, influisce sulle mance guadagnate dalle ballerine di lap dance. Nel periodo di massima fertilità le signorine pare infatti che guadagnino circa $400 contro i 250 di media circa. E poi dicono che, insomma, fare ricercatori è noioso. Io nicchio su questo argomento e invece ti dico che il mio Ig Nobel preferito invece è quello della biologia. Perché una ricerca francese che cosa ha scoperto? Che le pulci dei cani saltano di più di quelle dei gatti. E questo non lo sapevamo. Ma ti dirò di più, per le scienze cognitive un trio giapponese ha dimostrato, pensa Maurizio, che le muffe sono in grado di svilupparsi attraverso un labirinto. E non solo, trovano anche la via di uscita. Quindi sono più intelligenti di altri personaggi che incontriamo Sì, voglio dire, questa ricerca è stata pubblicata su Nature, mica... Io questa invece non so dove è stata pubblicata, ma il premio Ig Nobel 2008 per la fisica è andato a un certo Dorian Reimer per una ricerca che ha dimostrato matematicamente, però, che se scuotete un ammasso di corde, stringhe, capelli e roba simile, quindi un cesto con dentro tutta sta roba, tenderanno a formarsi dei nodi. Ecco, allora vorrei darti un aggiornamento. Di recente abbiamo parlato di effetto placebo. Ecco, l'Ig Nobel per la medicina 2008 invece è stato assegnato ad un gruppo internazionale di ricercatori che ha scoperto, pensa un po', che i placebo più costosi sono più efficaci di quelli che costano meno. Grottesco? Grottesco, ma Paracelso questo l'aveva già detto nel 500 quando criticava gli speziali che vendevano delle schifezze che non servivano a niente. Stiamo parlando di farmaci, andiamo sulla chimica. E il premio 2008 è andato ad un ricercatore il quale ha dimostrato che la Coca-Cola è un eccezionale spermicida. Ma il premio è stato assegnato in concomitanza ad un'altra sua collega asiatica che dimostra invece esattamente il contrario, cioè che la Coca-Cola non funziona come spermicida. Come se non bastasse il fatto che ci fosse un signore che faceva ricerche sull'effetto spermicida della Coca-Cola. Vabbè, anche questo è Ig Nobel, però è più Ig Nobel di così si muore. Senti, poi c'è una notizia importante che dobbiamo dare. Certo. Perché anche quest'anno un Ig Nobel se l'è beccato un italiano. Questo è vero, e sorpresa delle sorprese è il nostro ospite, Maurizio. Barbacco. Quindi torniamo in studio da Federico e andiamo a dare il benvenuto al nostro ospite, Massimiliano Zampini. Zampini, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Lei riconosce questo rumore, no? Immagino. Ecco. Sì, mi è in qualche maniera familiare. Anche perché quello che c'è dentro è quello che lei ha usato nelle sue ricerche. Sì, sono proprio gli stimoli che abbiamo utilizzato nello studio premiato. Allora, ecco. Siamo qui tutti, Chiara, Maurizio, io, è eccezionale perché non siamo mai stati tutti e tre insieme. Sì. Senta, Zampini, non abbiamo vinto il Nobel per la fisica, abbiamo vinto l'Ig Nobel, forse lei non se la prende se diciamo che magari era meglio prendere il Nobel per la fisica. Io sono perfettamente d'accordo con forse lei. Forse era meglio prenderli tutti e due. Forse era meglio prenderli tutti e due, certo, porca miseria, potevamo fare l'amplen. Allora, Chiara, Maurizio, chiediamo... Sì, presentiamolo intanto. Presentiamolo, Chiara. Allora, lui è Massimiliano Zampini ed è appunto il vincitore del premio Ig Nobel per la nutrizione. Esatto. Allora, abbiamo appena fatto sentire un pacchetto di patatine. Qui le vedo, ci sono dentro. Ecco, lui è un ricercatore dell'Università di Trento e ha condotto uno studio sulla percezione del croc delle patatine. Fantastico. Come indice di freschezza. Comunque, Zampini, ci spieghi lei perché cosa ha vinto questo Ig Nobel? Ma guardi, io sono di formazione psicologo, mi occupo appunto di capire i meccanismi alla base del funzionamento della percezione, in particolare come interagiscono le varie modalità sensoriali. In questo caso particolare a noi interessava un po' capire se la modalità uditiva, quindi la percezione dei suoni, può ingannare in qualche maniera le altre modalità sensoriali o che influenza può avere la modalità uditiva su le altre modalità sensoriali. E ci interessava in particolare andare a indagare un aspetto della percezione del cibo che è legato alla sua croccantezza, alla sua freschezza, ed ecco che ci sembrava che le patatine fossero lo stimolo ideale. Detto questo, la scelta è caduta su un particolare tipo di patatine perché queste patatine hanno la caratteristica di avere tutte lo stesso aspetto, quindi sto parlando di aspetto visivo, visivamente sembrano tutte uguali, ma anche dal punto di vista tattile, quando le si tocca, quando le si morde, hanno tutte la stessa consistenza. Senta, scusi, quindi come si svolgeva l'esperimento? C'era un signore con una patatina in bocca e un microfono davanti? Allora, c'erano due signori, uno dei signori ero io, quello che dava di volta in volta le patatine. L'altro signore o signora partecipante all'esperimento stava all'interno, seduto comodamente all'interno di una cabina isolata acusticamente, di fronte a lui aveva un microfono e doveva indossare delle cuffie. Okay. Ora, ogni volta che gli veniva data una patatina, gli veniva espressamente istruito a mordere le patatine con i denti incisivi, dare un solo morso e veniva mostrato l'azione che doveva compiere in modo tale che un po' tutti i partecipanti mordessero le patatine alla stessa maniera. Per noi era importante che in qualche modo il morso fosse stereotipico, che non ci fossero grosse differenze. Ci provo? Senta, facciamo un esperimento in diretta. Vediamo, ci dica se siamo bravi. Uno solo, un morso netto, così. Esattamente. Mm. Croccantissime sembrerebbero. Lei riconosce ormai anche la marca dal suono, a questo non siamo ancora arrivati. No, questo però in realtà lei ha sentito che in questo caso, insomma, il suono può produrre un effetto. Una cosa che ho detto ma non ho specificato, non ho precisato, era che noi manipolavamo il suono. In che senso lo manipolavamo? Noi le persone potevano sentire il suono così com'era, cioè il suono che producevano mordendo le patatine, oppure potevano sentire un suono in qualche maniera distorto, cioè venivano amplificate le frequenze più alte del suono prodotto, le componenti appunto con le frequenze più alte, oppure il suono nel suo complesso. E il risultato? E il risultato finale è che appunto quando i partecipanti percepivano il suono di intensità più alta o le frequenze, le più alte frequenze, che sono quelle che fanno il croc, esatto, dicevano che quelle patatine erano più fresche, le più croccanti, più croccanti. Ma in realtà magari non era vero. No, erano tutte uguali. Va bene, Zampini, allora in conclusione ricordiamo che lei ha fatto questo tipo di studi anche per l'acqua gasata, per lo spazzolino elettrico, insomma, non è nuovo questo tipo di studi, ma questa è tutta un'altra storia, vedremo l'anno prossimo se vincerà l'Ig Nobel anche per questo. Grazie allora e buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. In questa seconda parte parliamo dei Nobel per la scienza, quelli cosiddetti veri, che vengono da Stoccolma. Harald Zurhause si è aggiudicato il premio per le sue ricerche sul papillomavirus, qui è andato tutto liscio. Grande sorpresa, forse finta, forse vera, per il Nobel assegnato a Luc Montagnier e alla sua collega François Barsinoussi per l'individuazione del virus dell'AIDS. Potevano premiare 30 anni fa? Sì, ma non è questo il punto, o forse lo è in parte. C'è un grande assente, Robert Gallo, che con il gruppo di Montagnier costituì il tandem di punta nella prima battaglia contro l'AIDS combattuta per individuare il virus 1984-85-86. Ricordiamolo, non fu una bella pagina per la scienza. I due laboratori al di qua al di là dell'oceano furono presi da una frenesia da competizione, non collaborarono, mentre migliaia di persone morivano ogni anno. Ad un certo punto Gallo confermò che il virus individuato da Montagnier era quello dell'AIDS, ma ci fu addirittura una denuncia per sottrazione dolosa di reperti. Gallo era riuscito a far trafugare dal laboratorio parigino dei campioni sui quali lavorava Montagnier. L'inchiesta non trovò prove convincenti di questo fatto, però un'ombra non se n'è mai andata. Forse a Stoccolma si è aspettato tanto tempo per cambiare le acque, ma poi una scelta etica è stata fatta. Nobel per la chimica invece, senza polemiche. Osamu Shimomura, Martin Chanfield, Roger Tsiu sono i premiati. Premiata la tecnica che usa il gene fluorescente, per usare una definizione rapida. Pensate a una cellula, ai suoi geni, alla sua attività. Quando siamo nei primi periodi di vita di un organismo, per esempio, c'è un'attivazione di quei geni che porta alla scelta di essere una cellula di un fegato piuttosto che di un'unghia. È il meccanismo fondamentale della differenziazione. Oppure, in casi problematici, una cellula e i suoi geni commutano in una versione patologica. C'è un meccanismo cellulare che possiamo pensare sia come una molla che lancia, attiva il gene, ma quando scatta questo meccanismo? Eccoci al Nobel, i tre ricercatori hanno scoperto un modo per inserire questo gene fluorescente che si trova in natura, per esempio in alcune alghe, inserirlo nel meccanismo di attivazione, sostituendolo a quello normale. Da quel momento, con un'osservazione al microscopio, si ha un semplice tracciatore luminoso, vediamo direttamente l'innesco del processo e quindi sappiamo con precisione quando è avvenuto. Polemiche invece per il Nobel alla fisica, una spiegazione più dettagliata sulle ricerche che sono state premiate, che hanno ricevuto il riconoscimento, ve la do più avanti. Comunque Yokiro Nambu, Makoto Kobayashi e Toshide Makawa sono stati premiati per i contributi dati alle teorie sulla simmetria dell'universo, ma è stato impossibile non sollevare, soprattutto da parte italiana, che queste ricerche hanno un loro preciso nei lavori di Nicola Gabibbo, uno dei più validi nostri fisici teorici, che fra l'altro con Kobayashi e Makawa hanno firmato gli articoli che hanno fondato questa teoria. Noi in questa puntata vogliamo anche aggiornarvi su come stanno le cose all'LHC di Ginevra, che si è fermato per un guasto. Barbara Galavotti ha intervistato Sergio Bertolucci, direttore della ricerca al CERN. Non si poteva non chiedergli però un commento al mancato Nobel a Gabibbo. Poi sull'LHC lo sentiremo più avanti. Sentiamo cosa ha detto Bertolucci. E questo ci riempie in realtà di molta amarezza, perché questo premio Nobel di un paio di giorni fa è stata per noi una sorpresa molto sgradita e molto inaspettata per tutta la comunità, non soltanto per la comunità italiana. Il comitato del Nobel ha deciso di fare un Nobel abbastanza mescolato. È stato dato un premio Nobel diviso, diciamo, in due parti. Uno al professor Nambu e l'altro ai professori Kobayashi e Maskawa. Nel caso di Nambu si è dimenticato che un lavoro molto importante fatto nello stesso tempo assieme a lui era stato fatto dal professor Iona Lasigno dell'Università di Roma, e soprattutto nel caso di Kobayashi e Maskawa c'è, la comunità è esterrefatta dal fatto che non sia stato riconosciuto il premio Nobel al professor Nicola Cabibbo, che ha iniziato quest'idea una decina d'anni prima che Kobayashi e Maskawa estendessero questa matrice che si chiama infatti tutto il mondo di Cabibbo, Kobayashi e Maskawa. Abbiamo altre opinioni sul Nobel alla fisica. Paolo Rebusco, la nostra corrispondente che di solito sta a Boston, invece è a Stoccolma, e a Stoccolma ha intervistato Lars Prink, che è un membro della commissione per l'assegnazione del Nobel alla fisica. Gli ha chiesto cose in generale anche sul Nobel, però hanno parlato anche in questo caso di Cabibbo. I Nobel di quest'anno hanno come tema comune la rottura di simmetrie. Li e Yang furono i primi a sfidare le simmetrie nel 1956 e per questo vinsero il premio Nobel l'anno successivo. Quest'anno vengono premiati dei lavori svolti 40-50 anni fa, cosa che succede spesso. Ora abbiamo qui Lars Brink, che è membro del comitato del Nobel per la fisica, e gli domandiamo: ci può spiegare perché ci vuole tanto tempo perché una scoperta sia riconosciuta degna del premio? Certo, ci sono due tipi di teorie, quelle che si possono controllare immediatamente e quelle che necessitano di più tempo. Nel caso Kobayashi e Maskawa sono dovuti passare parecchi anni per costruire gli strumenti in grado di verificare la loro teoria. L'idea di Nambu, che è ancora più vecchia, è talmente innovativa che ci è voluto del tempo per accettarla fino in fondo. Chiaramente si sarebbe potuto premiare prima. Di fatto non si sa mai esattamente quando verrà dato un premio. C'è molta competizione. Quando ho studiato fisica delle particelle, ho imparato che il lavoro di Kobayashi e Maskawa è basato sugli studi precedenti del fisico italiano Nicola Cabibbo, tanto che si parla di matrice CKM, che sta appunto per Cabibbo, Kobayashi, Maskawa. Penso che sia quindi naturale domandarsi perché Cabibbo non è stato premiato. That was a very important piece of work. Il lavoro di Cabibbo è senza dubbio molto importante, ma i premi di quest'anno sono con precisione attribuiti ai meccanismi che spiegano la violazione di simmetria di carica e parità, ed è l'introduzione di tre famiglie di quark, non il mescolamento su cui ha lavorato Cabibbo, che ha davvero permesso la dimostrazione di questa violazione di simmetria. Da qui la ragione della premiazione. And that's what the prize is about. Per finire, si discute in tutto il mondo del perché poche donne svolgano ricerca in ambito scientifico. Ed effettivamente ci sono solo due donne che hanno vinto il premio Nobel per la fisica. Cosa ne pensa? È un grossissimo problema. E il premio Nobel in questo senso è uno specchio del mondo. Questi premi sono dati per lavori svolti negli anni 60 e 70, quando c'erano ancora meno donne, pochissime, nella scienza. Speriamo che la situazione migliori nei prossimi anni, ma ci vorrà del tempo. È un problema della società. Bisogna perciò permettere e controllare l'accesso delle donne nelle scienze naturali. E magari tra 30-40 anni ce ne saranno di più. Sì, speriamo ci sia più parità, assolutamente. Lasciatemi ora ritornare al Nobel per la fisica per vedere di capire un po' di che cosa si tratta. Sono stati premiati per i loro contributi alle teorie che studiano la simmetria dell'universo e in particolare la rottura di questa simmetria. È difficile entrare nei particolari delle loro ricerche. Può essere decisamente interessante però spiegare il contesto in cui queste ricerche si muovono. Vediamo il tutto con un esempio. Immaginate che noi umani si sia solo la metà di quello che siamo. Partiamo dalla testa e andiamo giù. Quindi ci ritroviamo con mezza fronte, un occhio, un orecchio, un braccio, una gamba, e però facciamo appunto una vita assolutamente normale. Siamo a metà e ci va bene così. Tuttavia, studiando il nostro comportamento, ci vengono dei dubbi. Per esempio, se corriamo, ci viene giustamente il sospetto che l'equilibrio che manteniamo non sia possibile con un solo braccio. Dovremmo sbandare, dovremmo fare molta più fatica. E non parliamone poi di quanti sospetti dovrebbero venirci non solo correndo, ma camminando, no? Dal fatto che abbiamo una gamba sola ci faremo un po' di domande. Allora nasce una teoria. C'è una metà nascosta che ci rende simmetrici e che fa sì che i conti tornano. Studiando l'universo, la fisica ha individuato prove consistenti della possibile esistenza di una simmetria nascosta che all'origine, proprio nei primi momenti del Big Bang, c'era, ma poi si è rotta. Ecco, rottura di simmetria. Se tale simmetria ci fosse, allora molte strane cose dell'universo si spiegherebbero, fenomeni che oggi hanno portato i fisici teorici, l'astrofisica, a parlare di materia oscura, di energia oscura, per esempio. Questo non è un modo singolare di procedere della fisica, è una modalità che ha sempre avuto un suo spazio, perché a noi oggi sembra ovvio, ma se torniamo ai tempi di Newton, quando lui disse: qui tutto tornerebbe se ci fosse una forza che agisce a distanza e che regola i rapporti fra le masse, sia quelle degli oggetti del nostro mondo, la famosa mela, che quella dei pianeti. Bene, queste affermazioni di Newton non erano affatto banali allora. Pensare che ci fosse una forza che agisce a distanza, senza intermediari fisici, era proprio una bomba concettuale nel contesto scientifico di allora. Però poi da quell'intuizione si è arrivati alle automobili, agli aerei, ai viaggi spaziali, che ovviamente si basano sul fatto che sappiamo perfettamente che cosa sono le forze gravitazionali sul nostro pianeta. Vi ricordate il quiz? Dovevate capire che cos'era questo verso. Magari ve lo faccio sentire ancora una sola volta. Eccolo qua. Bene, non era una pompa per gonfiare un canotto, non era nemmeno una pompa per estrarre acqua. Questo è il verso della zebra. Questa era la soluzione. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato. Questa è probabilmente una delle più note filastrocche per allontanare il malocchio recitata dall'inconfondibile Lino Banfi. Giuro che sulla validità della ricerca di cui ora vi parlo ho forti dubbi. È uscita su Science, autorevolissima rivista di scienza, però, beh no, non saprei comunque. La notizia è questa: i rituali della superstizione, ovvero temere che uno specchio rotto porti guai, oppure che è meglio non dire in certi casi che le cose vanno bene, per esempio sono anni che non ho incidenti d'auto e quindi l'assicurazione mi premia, ecco, queste migliaia di variazioni sul tema della fortuna o sfortuna sarebbero comportamenti sviluppati da persone stressate o che hanno forti problemi di sicurezza in se stessi. Un team di ricercatori statunitensi, guidati da Jennifer Whitson e Adam Galinsky, hanno fatto una serie notevole di esperimenti e sono giunti alla conclusione che vi ho detto. Meglio essere precisi, però. Sono alcune delle loro dichiarazioni, dopo aver pubblicato l'articolo, che creano una connessione diretta fra atteggiamenti superstiziosi e insicurezza. Le loro ricerche erano più mirate. Hanno sottoposto dei gruppi di individui scegliendo un mix di stressati e insicuri. Mi piacerebbe capire, fra l'altro, come hanno fatto a scegliere. Sono andati dalla gente dicendo: scusi, mi dicono che lei è insicuro. Vabbè, comunque, questa è un'altra storia. Dicevo, hanno costruito un mix di stressati e non, e a questi hanno, per esempio, fatto vedere dei disegni nei quali si potevano intravedere delle forme di oggetti, ma in modo confuso, approssimato. Però con qualche traccia sufficiente a vedere qualcosa di individuabile. Ed è successo questo. Gli insicuri si lanciavano in un sacco di interpretazioni molteplici di quello che vedevano, andando palesemente oltre l'evidenza e con ciò esprimendo una loro tendenza a vedere anche quello che non c'è, ad alterare la realtà. Niente di tutto questo nei sereni, i quali guardavano i disegni e dicevano: sì, non è chiaro, comunque è un coniglio o un gatto. Galinsky, uno dei ricercatori, ha dichiarato: l'insicurezza ci porta a vedere nemici dappertutto, a rifugiarci in un mondo parallelo. Non so che dire, si sa bene che personaggi in possesso di grandi ricchezze, famosi industriali dell'automobile ad esempio, avevano rapporti assidui e ineludibili con cartomanti, così come grandi attori e attrici, amatissimi e di successo. Si dirà, ma non è detto che il successo dia felicità, va bene, ma tutti noi altri allora in che condizioni dovremmo essere? Se uno che ha preso 3 Oscar è stressato e superstizioso, allora la gente comune dovrebbe muoversi lentamente per strada perché è appesantita da 300 kg di corni rossi e zampe di coniglio selvatico gigante dell'Australia. Ho quindi la sensazione che le dichiarazioni suddette dei ricercatori americani stressino, questo sì, un po' troppo i loro risultati e che i meccanismi della superstizione possano avere a che fare anche con insicurezza, ma che vi sia molto altro, di più complesso. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi avevo già preannunciato che avremmo avuto aggiornamenti sulla situazione del fermo di macchina, l'LHC di Ginevra. Barbara Gallavotti su questo tema ha intervistato Sergio Bertolucci. Abbiamo qui Sergio Bertolucci. Buonasera. Buonasera. Sergio Bertolucci è stato nostro ospite molte volte come vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Pochissimi giorni fa però è stato nominato direttore di ricerca del CERN. Di fatto occuperà la seconda carica più importante di quello che al momento è probabilmente il più importante centro di ricerca di fisica del mondo. Quindi in primo luogo congratulazioni. Grazie, speriamo che me le facciano anche tra 5 anni. Entrerà in carica da gennaio, forse sperava di iniziare il lavoro in condizioni migliori, invece si trova una macchina in via di riparazione. Questo è abbastanza normale, queste macchine sono oggetti molto complessi che non è che si costruiscono sino a un giorno e il giorno dopo funzionano a pieno regime, sono un'opera in divenire per molti aspetti. I primi risultati di questa macchina erano stati molto incoraggianti, eravamo tutti molto incoraggiati all'ottimismo che il percorso sarebbe stato particolarmente veloce e facile. Non è stato così, invece che un buco nero abbiamo fatto un buco, semplicemente, un buco nell'acceleratore e da questo buco sono venute fuori un bel po' di elio liquido che ha provocato una certa quale sconquasso espandendosi. Non c'è niente di particolarmente devastante in questo incidente, è abbastanza importante che la riparazione verrà fatta nel giro di qualche mese. Quello che adesso le squadre di esperti stanno facendo, stanno capendo bene i motivi che hanno portato a questi incidenti in modo tale da capire se esistono delle manchevolezze del sistema di controllo, perché è chiaro che questo tipo di incidente non vogliamo che si ripeta più. Lei diceva incidenti normali quando si inaugura una macchina così complessa. Può raccontarci qualche altro caso? Lei ha lavorato nei più importanti acceleratori di particelle del mondo. Sì, ad esempio a Fermilab, Fermi National Accelerator Laboratory di Chicago, che è il secondo più grande laboratorio del mondo dopo il CERN, quando è stata messa in funzione il Tevatron, che è la macchina più potente al mondo prima di LHC, c'è stato un periodo di quasi 2 o 3 anni in cui ci sono stati incidenti di questo tipo. Ad esempio io mi ricordo benissimo che allora ci tenevo ancora la mia forma fisica, stavo correndo all'interno dell'anello è lungo circa 7 chilometri e veniva usato dai ricercatori come un posto adatto per fare jogging, quando la macchina ha fatto quello che veniva chiamato un full house quench, cioè tutti i magneti della macchina, 7 magneti della macchina, sono passati dallo stato superconduttore allo stato normale conduttore, che è un evento molto spettacolare perché bisogna buttare fuori tutto l'elio prima che si espanda dentro ai magneti e li rompa, bisogna scaricare tutta l'energia lì dentro, per cui tutti noi poveri corridori fuori abbiamo visto queste nuvole di ghiaccio che venivano fuori dagli sfoghi delle valvole e dei fulmini che erano tutti gli scarichi dell'energia nei sistemi di protezione. E poi di nuovo anche lì c'è stata una pausa di qualche mese per riparare i danni che si erano fatti e per soprattutto capire che questa cosa, come non farla succedere più. È risuccesso, tra l'altro in questo caso è risuccesso un'altra volta in maniera molto meno spettacolare, e poi per altri 20 anni non è mai più successo. Per non contare gli aneddoti, perché ad esempio io una delle altre macchine, il fascio non riusciva a circolare e alla fine hanno trovato che c'era rimasta dentro alla ciambella vuoto, c'era rimasta una bottiglia di birra. Beh, la bottiglia di birra forse è un caso abbastanza unico, però mi pare di capire che invece il problema di connessione fra i magneti sia la cosa più comune che può capitare. Tenga conto che il numero di componenti di una macchina di questo tipo sono alcune centinaia di migliaia, che sono state tutte verificate una a una con sistemi anche molto sofisticati, raggi X, prove a distruzione, però la possibilità che in queste centinaia di migliaia di componenti esista un difetto nascosto cosiddetto, non si sa sino a che non si mette in funzione l'apparecchio tutto assieme. Grazie Sergio Bertolucci, buonasera. Grazie. Siamo all'ultimo servizio di questa puntata. Chiara Albicocco vi parlerà ora di batteri e incomincerà dalle catacombe. Si può? Sì, si può. Ascoltate. C'è vita nelle catacombe. Ecco, adesso non immaginatevi scene con zombie e mummie modello L'alba dei morti viventi. La vita nelle tombe sotterranee c'è, ma è microscopica. I cunicoli sono abitati da migliaia di microorganismi e di batteri e a volte capita di imbattersi in batteri completamente nuovi, mai visti prima. E questo è successo nelle catacombe di San Callisto a Roma. Una rete di gallerie lunga quasi 20 chilometri su diversi piani e profonda quasi 20 metri, insomma un bel ambientino. E tra queste mura trovano sepoltura più di 30 salme tra papi e martiri cristiani. Stiamo parlando di un'area di 15 ettari, l'estensione più o meno di 20 campi da calcio, forse di più. Ebbene, sulle pareti di questi antichi muri, che risalgono al secondo secolo d.C., proliferano due specie di batteri, appartenenti al genere Cribella, che mettono a rischio però la conservazione del sito e la salute di questi monumenti. A individuarli è stata la microbiologa Clara Urzì, dell'Università di Messina. E sarà lei proprio a spiegarci l'utilità di questa scoperta e anche come potrà essere poi impiegata nella conservazione dei beni culturali. Intanto, buonasera, professoressa Urzì. Buonasera. Ecco, inquadriamo intanto dove avete lavorato, il sito della scoperta. Ci troviamo, abbiamo detto, tra le mura delle catacombe di San Callisto, nei sotterranei di Roma. Insomma, un ambiente abbastanza buio e umido. Beh, tanto buio non c'è, non è, perché la luce viene fornita in quanto i turisti devono visitare queste catacombe, quindi è necessario illuminarle. L'illuminazione artificiale? Sì, è un'illuminazione artificiale. È umido, sì, e infatti l'umidità è abbastanza elevata, può raggiungere anche punte di 80-90% di umidità relativa. E la temperatura è sui 19-20 gradi. Ecco, in questo ambientino che cosa avete scoperto? Avete individuato due nuove specie di batteri. Intanto, come li avete chiamati? Le nostre specie si chiamano Cribella catacumbe e Cribella San Callisti, poiché li abbiamo isolati dalle catacombe di San Callisto. Ecco, quindi già il nome ci dice parecchio. Sì, sì, sì, abbiamo voluto onorare queste catacombe. Sono degli batteri eterotrofi, sta a significare che utilizzano fonti organiche di carbonio. E il loro isolamento è stato fatto in punti specifici di alcuni siti chiamati cubicula, in particolare il cubicolo di Oceano, in cui vi erano delle alterazioni delle coperture, quindi delle patine di colore bianco-grigiastro. Ecco, che cosa significa aver trovato queste due nuove specie di batteri in questo sito? Per noi microbiologi è un piacere trovare nuove specie, descriverle, come significato aggiunge un maggiore contributo alla biodiversità esistente nel mondo degli organismi viventi. Quindi trovare nuove specie è un'informazione in più nel piccolo tassello dell'evoluzione, della diversità, della diversificazione dei batteri nei vari siti, nelle varie habitat. Ecco, a questa importanza biologica, diciamo, si unisce poi quello che è invece il valore per quel che riguarda l'applicazione invece della conservazione di questi siti. Certo, perché conoscenza significa poter attuare le metodiche di conservazione, delle strategie di conservazione che siano le più idonee per l'ambiente stesso. Quindi si conoscono i microrganismi e poi si operano tutte quelle attività atte alla loro eliminazione, quando è possibile, o al loro controllo. Ecco, infatti ci sono dei fattori ambientali che rendono possibile la vita di questi batteri. Studiando appunto le condizioni in cui questi proliferano, è in realtà possibile poi cercare di limitare i danni, purtroppo, che questi organismi operano sulle superfici. Esatto, non dimentichiamoci che in queste catacombe vi è anche una fonte di luce che permette la crescita di organismi fotosintetici, quindi parliamo di comunità microbiche che coesistono nello stesso ambiente, quindi anche questo va preso in considerazione al momento di attuare queste strategie di conservazione. Quindi i fotosintetici hanno bisogno di luce, si possono attuare strategie quali l'utilizzo di luce monocromatica e per quanto riguarda gli eterotrofi ridurre i nutrienti, la fonte di nutrimento che potrebbe venire anche dalla presenza degli organismi fotosintetici. Quindi tutto questo va visto in questa luce, attuando il monitoraggio, cosiddetto monitoraggio, che è la strategia migliore, cioè controllare quello che sta avvenendo e eventualmente intervenire in tempo per che non vada oltre. Ecco, ci fa capire quali sono i danni che provocano questi batteri su queste superfici? Beh, innanzitutto qualcosa di ben percepibile, la crescita che può essere più o meno estesa, quindi nel caso dei fotosintesi di colore verde-blu che va verso lo scuro, nel caso dei nostri batteri invece la crescita, la colonizzazione è di colore bianco-grigiastro, forma queste patine, questi veli biancastri. Quindi si vedono, insomma, si vedono sulla superficie. In molti casi possiamo percepirli ad occhio nudo. Dopodiché non esiste soltanto questo danno, questa alterazione di tipo estetico, ma anche un danno di tipo meccanico, di tipo biochimico. Meccanico perché sono organismi che producono filamenti, quindi i filamenti penetrano all'interno del substrato. E praticamente questa comunità potrebbe rendere ancora più umido, staccare con più facilità la parte più superficiale, cioè dove c'è l'affresco. In questo sito in particolare ci si sta già muovendo per poter, insomma, in qualche modo migliorare la situazione o comunque delle operazioni sono in previsione? Beh, diciamo che qualcosa è stato fatto, in particolare con le luci, sono state emesse delle luci monocromatiche per quanto riguarda il controllo dei cianobatteri. E per quanto riguarda gli altri organismi, diciamo la prima cosa da fare è la pulizia, cioè la rimozione meccanica in molti casi della microflora che cresce. Chiaramente non modificando l'ambiente, la situazione si ripresenterà nel futuro. Ecco, cioè non c'è il pericolo di minare alla biodiversità, insomma, batterica? Beh, questo è da vedere, dovremmo rivedere un poco nel tempo, perché noi abbiamo fatto questi prelievi, questi studi abbiamo fatto nel 2003 abbiamo finito e dovremmo rifare i campionamenti in modo da vedere che cosa è cambiato anche per quanto riguarda biodiversità batterica. Va bene, d'accordo, allora buon lavoro. Grazie, buonasera. Arrivederci e buonasera. Möbius finisce qui per questa puntata. Buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo la prossima settimana. Sentiamo come vanno le cose nel traffico. Breve pausa adesso, lasciamo gli Ig Nobel e andiamo verso i cosiddetti Nobel veri. Altre macchine, non robot, sentiamo come vanno le cose nel traffico.